Le 8:23 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Il nostro protagonista di oggi è l'onorevole Benedetto Della Vedova, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Di Futuro e Libertà e dunque finiano. Senta, oggi la Camera vota sulla richiesta della magistratura di utilizzare le intercettazioni che coinvolgono l'ex sottosegretario Cosentino, accusato di associazione esterno alla Camorra. Sa come definisce oggi Cosentino i finiani? In un'intervista a Repubblica: ci sono troppi farisei tra di loro, indulgenti con gli amici e implacabili coi rivali. Lei si sente un fariseo? No, non so esattamente a cosa Nicola Cosentino si riferisca. Non mi interessa la polemica con lui. Certo, la cosa potrebbe facilmente essere ribaltata, nel senso che nel suo campo, rispetto a questa vicenda, non rispetto alla maggioranza dove stiamo insieme, nel suo campo c'è chi chiede le dimissioni per le pagliuzze difendendo i travoni che occupano gli occhi di tanti nel PDL, quindi insomma. Ma al di là delle polemiche, credo che questa vicenda vada la vicenda della richiesta di utilizzo delle intercettazioni vada confinata dove sta, cioè nel fatto che la Camera può, avendo detto no all'arresto di Cosentino, e quella scelta non è in discussione, a questo punto si tratta di capire se consentire oppure no l'uso di intercettazioni. Ma lei ha già deciso? Belle scritte, insomma, non è che sia una cosa così. Ma lei ha già deciso come voterà, per esempio? Ma guardi, noi abbiamo la riunione di gruppo tra poco, quindi non ha senso che anticipare. Sarebbe poco corretto nei confronti dei colleghi anticipare. Ma che sieda in Parlamento Cosentino con queste accuse, a lei personalmente dà fastidio? Cioè dovrebbe, che ne so, dimettersi? Ma guardi, le accuse sono, capi di imputazione sono gravissimi, e c'era appunto una richiesta d'arresto contro cui era stato fatto ricorso in sede giudiziaria, e la Cassazione ha stabilito che la richiesta d'arresto era legittima. Il Parlamento ha invece votato contro la possibilità di arresto, e questo ci può stare, nel senso che questo fa parte, diciamo, delle guarentigie parlamentari. Ha a che fare con la divisione dei poteri, eccetera. Sì. E quello di cui discutiamo oggi invece, cioè l'uso delle intercettazioni in un processo, non ha a che fare con questo, nel senso che... Ma lei vuole dire personalmente, cioè le dà fastidio o no? Oppure è una cosa, no, ci sono le prerogative di difesa, non, può sedere in Parlamento tranquillamente. Ma guardi, ripeto, non è questione di fastidio, insomma, non è una questione psicologica, questo è un grande tema politico storicamente, quello delle guarentigie dei parlamentari, o meglio dei parlamenti, e quindi io ho votato contro l'arresto di Cosentino non perché pensi che non si debbano indagare i parlamentari imputati di gravi reati, ma perché credo che il passaggio dell'arresto possa essere alla fine, a prescindere dai casi specifici, un vulnus per il buon funzionamento dei sistemi democratici. Altra cosa, che è quella di cui discuteremo oggi invece, è l'intercettazione, certo. Si possono usare o meno delle intercettazioni. Da quanto risulta anche dall'intervista del pubblico, Cosentino dirà: beh, guardi, sono indifferente, utilizzatele pure, insomma. Utilizzatele pure. Beh, no, diciamo, ma qui vedremo come sarebbe un buon segnale. Vedremo come va la giornata. Senta, lei che ha una storia liberista e radicale alle spalle, è vero che, e conferma che è favorevole, per esempio, alle coppie di fatto, anche alle coppie omosessuali? Non è la posizione del gruppo di Futuro e Libertà, che non ha ancora affrontato questo tema. Io personalmente non ho cambiato idea. Trovo il fatto che l'Italia sia l'unico paese, tra i grandi paesi europei, e che il centrodestra italiano sia l'unico tra i grandi centrodestra democristiani, popolari, liberali, moderati europei a considerare un riconoscimento giuridico delle coppie di fatto eterosessuali e omosessuali un attacco alla famiglia, lo trovo un anacronismo, assolutamente da superare nell'interesse di tutti. Insomma, allora, evitiamo di dividere gli italiani tra quelli che sono a favore e quelli che sono contro il coppia di fatto. Guardiamo le statistiche Istat, vediamo la realtà e adeguiamoci alla realtà. E allora, nel salutarla, mi dica però sì o no, perché il sottosegretario Giovanardi ha detto se ci fossero adozioni degli omosessuali ci sarebbe la tratta dei minori o qualcosa del genere. Lei è favorevole anche a un'eventuale adozione per le coppie omosessuali? Come legislatore oggi non chiederei l'adozione alle coppie omosessuali. Perfetto, la ringrazio per essere stato con noi, onorevole Benedetto Della Vedova, Fignano, Futuro e Libertà. Vedremo oggi poi come si dipanerà la giornata politica al voto su Cosentino. Che dire, noi parliamo di talk show televisivi nel nostro sondaggio. Secondo voi talk show televisivi, riparte anno zero domani, tra l'altro, garantiscono il pluralismo di informazione? Votate su radio24.it oppure 800 24 0024, tra poco. 24 mattino. Alle 8:35 minuti in questo istante, eccoci qui a parlare del nostro sondaggio di talk show televisivi. È ripartita la stagione con inevitabili, non mancheranno, lo vedrete, le polemiche. La domanda che vi poniamo noi oggi è questa: secondo voi i talk show in TV garantiscono il pluralismo dell'informazione? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Su radio24.it dovete votare, il 61% di voi per il momento dice no, non garantiscono questo pluralismo di informazione. Cerchiamo di capire perché, se è così come la pensano i nostri ospiti, e intanto anche con voi 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, gli sms al 349 238 6666. Saluto due esponenti della commissione vigilanza RAI, il senatore Francesco Pardi dell'Italia dei Valori, buongiorno. Buongiorno. E il senatore Alessio Butti del Popolo della Libertà, buongiorno senatore. Buongiorno, grazie. Eccoci, allora, succede tra l'altro che il direttore generale della RAI, Masi, ha mandato una, non è una circolare in realtà, ma un appunto per i direttori di rete, in cui si dice sostanzialmente il pubblico in studio non deve essere parte attiva, basta questi pubblici, questo pubblico che applaude a ogni così orientando anche il parere degli ospiti o comunque di chi sta a casa. Poi il conduttore di talk show deve mostrarsi terzo, imparziale effettivamente, e poi gli ospiti devono essere intervistati in sequenza di contraddittorio, dando a ognuno tendenzialmente lo stesso tempo di parola. Senatore Pardi, perché da parte dell'opposizione si grida al bavaglio? Cioè, non sono regole, qualcuno dice, di buon giornalismo, diciamo così? Beh, senta, intanto io le rispondo alla domanda. Il pluralismo dell'informazione in Italia è impossibile, dal momento che il proprietario maggiore delle televisioni private è anche quello che controlla la televisione pubblica. In questo contesto capisco il 60% che dicono che non è possibile, perché i talk show da soli non ce la possono fare a rifare il pluralismo dell'informazione in un contesto così viziato all'origine. Quanto al bavaglio, le dico subito. Se il ragionamento venisse fatto in una condizione di vita sociale e pubblicistica normale, forse si ci potrebbe anche ragionare. Messo così, è un catechismo imposto da un direttore generale che, invece di preoccuparsi del calo drammatico di ascolti del TG1, che non solo perde ascolti ma perde pubblicità e quindi porta un colpo di danno economico pazzesco all'azienda, invece di preoccuparsi di queste cose sta lì a limare sulle cose da aggiustare nei talk show. A me la cosa che mi ha colpito più di tutto non è solo, diciamo, la precettistica di finto pluralismo, se quello parla 3 secondi, quell'altro deve parlare 3 secondi, cosa difficilissima da fare nei talk show. Ma è arrivare a prevedere addirittura il controllo degli atteggiamenti. I tecnici devono essere imparziali, perché l'inquadratura non deve cogliere delle espressioni di dubbio o di perplessità. L'ideale di questi servitori del padrone, dice Masi, è uno dei grandi servitori del padrone, è di immaginare un pubblico estatico. La cosa a cui piacerebbe di più loro è vedere le passeggiate di Berlusconi, che passa sempre con quel passo da trionfale, da tacchino impettito. con gli applausi del popolo zannante e le pressioni statiche delle ammiratrici. Ma no, sono vietati gli applausi, quindi non potrebbero passare neanche questi applausi a Berlusconi. Come l'ha definito lei, il tacchino impettito? Sì, tacchino impettito. Quando cammina, non so se hai notato, c'è un'arte oramai. Nei TG metà delle scene iniziali sono Berlusconi che come un tacchino impettito cammina in mezzo a tutte le seguaci del corpo con aria autorevole da statista, c'ha solo quello, c'ha solo l'aria, però lui recita questa parte perché è un pubblicitario di se stesso. Cioè dice addirittura c'è l'arte nell'inquadrare il tacchino impettito. Sì. Sì, lo affermo senza esitazione. Ok, no, perché attenzione, vabbè, ma dopo magari le dico come l'ha definito invece il presidente della regione Toscana ieri Berlusconi, forse aveva visto sui giornali, magari chiederò un parere anche. Allora glielo dico subito, perché tanto sta sui giornali, so che esco un attimo dal seminato, ma insomma, il presidente della regione Toscana ha detto del PD, Rossi, sapete cos'è Berlusconi, e lo dico e lo confermo, un gran puttaniere. Siamo comandati a un gran puttaniere. E che ride, voglio dire, è una frase grave comunque. No, ma è vero anche questo, Berlusconi stesso, diciamo, la sua vita personale lo conferma, cioè non è che si possa smentire un'affermazione come questa, è oramai conclamata. Conclamata. Però a me interessa di più quell'altro. No, aspetto. No, ma certo, sì. Senatore Butti, allora repliche su questo punto, non le faccio replicare ovviamente sul presidente della regione Toscana, per carità. Però grazie per questo. No, perché Pardi la dà per conclamata ufficiale, o quella delle immagini del tacchino impettito, effettivamente un po' mi fa sorridere. Però insomma, è il suo parere molto efficace. A me, però, senatore Butti, lei ha detto anche nei giorni scorsi sono delle osservazioni di buon senso, quello del direttore generale della Rai Masi. Effettivamente quello che però un po' mi colpisce è questa idea un po' di secondi a uno, un po' di secondi all'altro, cioè sembra una par condicio postuma, che è, voglio dire, c'è così bisogno di regolamentare i talk show? Beh sì, ecco, innanzitutto vi segnalo che ho qualche difficoltà ad ascoltare limpidamente. Adesso vediamo di migliorare l'audio. Dica. Ecco, grazie. Se ci sono delle circolari, e peraltro non sono delle novità, perché anche i predecessori di Mai, come ben si sa, avevano utilizzato lo stesso strumento della circolare per dire cose abbastanza simili, se ci sono delle circolari è perché evidentemente qualcuno in passato ha fatto il furbetto. Peraltro Masi opera su un mandato che è un mandato unanime da parte del Consiglio di amministrazione proprio per intervenire, come lei diceva, sulle questioni che riguardano la par condicio, la trasparenza, l'accesso ai servizi e alle trasmissioni e ad altro. Ora, richiamare l'attenzione sull'applauso mi sembra una cosa più che mai corretta. Noi l'abbiamo come problema sollevato più volte anche in vigilanza e non è una sciocchezza. Io mi domando che senso abbia l'applauso, magari politicamente orientato, appunto si chiama CLAC, come sapete, in una trasmissione di approfondimento giornalistico. Non ha senso, non ci sono uguali in Europa. Il politico non ha bisogno dell'applauso ad ogni sua battuta. Mm-hmm. Semmai la gente ha bisogno, senza l'applauso, di capire esattamente qual è il pensiero del politico, dell'ospite o del partito che il politico rappresenta. Vabbè, ma il problema è l'applauso, cioè è un fastidio, così dire, scenico, forse scenografico, ma No, guardi, non è una questione. Innanzitutto, come lei ben sa, l'applauso è entrato nel talk show d'approfondimento negli ultimi tempi, perché prima non c'era l'abitudine dell'applauso. L'applauso è stato introdotto con il pubblico di parte da Floris, da Santoro, questo è un dato assolutamente di fatto. E non occorre né un sociologo né un mass mediologo per capire che un applauso ben assestato ad un politico o sul passaggio particolare di un politico può valere anche 1000 gazebo nelle piazze d'Italia o la pagina del Corriere della Sera. Quindi sugli applausi nel servizio pubblico evidentemente non si può scherzare. Ma Masi va oltre, chiede anche l'affermazione di un principio che è rispettato in tutto il mondo occidentale, diciamo così, che è quello della terzietà del conduttore nelle trasmissioni. A chi si riferiva? È chiaro, lui parlava a senso generale, ma secondo lei chi è il meno imparziale? Dai, faccia un nome. Guardi, io ma non lo voglio né santificare perché francamente non mi interessa continuare a parlarne, però è del tutto evidente. So già dove vuole andare Santoro. Ecco. Ma è evidente. Scusi, anche un bambino di terza elementare questa cosa. A questo proposito, senatore Butti, no, le chiedo, a questo proposito, le fa riflettere su qualcosa che Santoro ieri era in prima pagina del Secolo d'Italia, cioè l'organo quotidiano che ormai insomma è considerato finiano. Oggi fa una sola intervista, perché farà la conferenza alle 12, dove sul Secolo d'Italia, la RAI dei bavagli, viviamo tutti sotto controllo, cioè i finiani stanno sdoganando Santoro o viceversa? No. Guardi, è una scelta di Santoro, cioè di scegliere per le proprie esternazioni mezzi di comunicazione che raggiungono un paio di famiglie in tutta Italia, perché come lei sa il Secolo d'Italia venderà, non so, 500-600 copie in tutta Italia. Beh, non si può accusarlo di non fare basso. Beh, no, non si può accusarlo di fare pochi ascolti, però. No, infatti. Ok, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi riparto dal senatore Pardi anche sulla vicenda Santoro, chissà, forse il direttore generale della RAI ovviamente parlava in senso generale, ma aveva alcuni obiettivi particolari da richiamare, chissà, tra un attimo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora c'è pluralismo di informazione nei talk show secondo voi? Sempre il 61% dice di no. Voglio sentire qualche ascoltatore. Paola da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io invece sono pienamente d'accordo col senatore Pardi, perché invece di preoccuparsi degli applausi, delle clac, secondo di come si vogliono vedere, dei contraddittori, quali hanno zero, cioè di trasmissioni in cui c'è comunque un contraddittorio tra due parti politiche differenti, forse bisognerebbe preoccuparsi di alcuni telegiornali in cui non c'è nessun contraddittorio e che sono assolutamente, beh, secondo me, di parti, quali il telegiornale, esempio, il TG1, Mendolini, in cui si sono dimessi addirittura dei giornalisti proprio perché non erano, secondo me, d'accordo. Vabbè, ma su questo la linea editoriale la stabilisce un direttore, chi è d'accordo la può seguire, chi no. Però sul fatto del pluralismo, grazie per la sua opinione, Paola. Io devo dire, a me gli applausi, ma non per una questione, danno fastidio proprio vedere uno che un politico dice una cosa e uno che gli applaude dietro, è una roba insopportabile, ma non credo però che sia un problema che orienti le opinioni a casa, ma questo è il mio personale parere. Detto questo, grazie Paola, voglio andare a Milano da Massimiliano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Di che? Dicevo questo, rispetto all'interpretazione che dà del sondaggio il senatore Pardi, mi pare che sia quantomeno opinabile sostenere che c'è una, come dire, che non c'è pluralismo nell'informazione a vantaggio di Berlusconi, perché la domanda non dà un'indicazione. No, infatti, non dà un'indicazione. Non c'è pluralismo. Cioè, secondo lei non c'è pluralismo, ma da che parte sono sbilanciati? Cioè, sono più a favore del centro-destra? A me sembra che di poter dire, guardando le trasmissioni che ci sono, quelle che contano, mi pare difficile pensare che siano trasmissioni a favore del governo Berlusconi. Se posso però dire una cosa facendo un passo indietro. Mi pare che il 61% sia un dato positivo, nel senso che chi guarda la televisione è conscio che c'è una mancanza di pluralismo, quindi, come dire, la necessità di informarsi di più. Questo mi sembra un dato un po' più interessante. Sì, a capire se però la TV informa. Grazie Massimiliano, questo è un tema un po' più ampio. Senatore Pardi, ma lei ha fatto la conta mai dei talk show, quelli che stanno per Berlusconi e quelli che stanno contro Berlusconi? No, la conta non l'ho fatta. Le posso dire questo, che certe volte come spettatore occasionale, non sempre costante, dei talk show, la cosa che mi impressiona francamente, per esempio in Anno Zero, è la quantità enorme di tempo che viene data a Ghedini, Sallusti, diciamo i sostenitori. Francamente non ho avuto la sensazione che, cioè, non è forse, diciamo, certo, il taglio generale della trasmissione forse ha il suo carattere, però gli ospiti di centrodestra non mancano mai, sono particolarmente agguerriti e gli viene data una quantità di tempo. Sugli applausi volevo dire che tutto sommato sono d'accordo con lei, gli applausi li trovo fastidiosi, però secondo me bisognerebbe riflettere sulla questione degli applausi. L'applauso è intrinseco alla televisione, è così intrinseco che oramai perfino si applaudono i funerali, perché il mondo è talmente Per questo io considero pericoloso Berlusconi, perché la televisione ha dettato al popolo italiano un'abitudine per cui si applaude dappertutto, compresi i funerali, pensi lei. E quindi a questo punto l'applauso in un certo senso esiste, ma è anche anodino, perché oramai è una manifestazione generica. Comunque io sono d'accordo, togliamo gli applausi, le faccio una proposta provocatoria. Perché non mettiamo invece degli applausi le risate registrate tipo sitcom, però le mandiamo in onda sempre, anche quando parla Berlusconi? Perché lei ce l'ha con Berlusconi? Qualcuno potrebbe dire quando parla lei, quando parla Bersani. Chi lo decide? Un contorno di risate secondo me sarebbe spiazzante, un po' tipo teatro brechtiano, no? Avrebbe un effetto spiazzante molto più degli applausi. Ho capito, ma chi è che fa il regista? Chi è che tira sul cursore degli applausi? Si fa un concorso pubblico e si sceglie quello che lo sa fare meglio. Vabbè, mettiamo anche qua le risatine, non so, Butti, vabbè, questa è una provocazione, però a me questa cosa anche di fare la conta, dire spesso si dice porta a porta è governativo, Santoro no ha più un taglio antigovernativo, quell'altro Floris ha più un taglio, non si sa, insomma vanno un po' tutti, però ci sono gli applausi. Voi la fate, perché i politici sono così interessati? Anche magari non la metteranno mai a fare queste conte, insomma, conta così tanto, influenza così tanto nell'elettorato? Certamente sì, adesso al di là di quello che dice il Monello Parti e delle sue provocazioni, va da sé che tutto ciò che riguarda il mondo dell'informazione abbia una ricaduta sulla politica e quindi anche su quello che la gente percepisce. Vede, è strano, io ad esempio ho una percezione del mondo dei TG che è un po' diversa dalla signora che ha chiamato prima. La signora si è riferita al TG1, premesso che le circolari di Masi valgono per tutti, questo sia assolutamente chiaro, quindi dai direttori dei TG ai conduttori di talk show, però io trovo ad esempio insopportabile il TG3 e gli approfondimenti del TG3. Ieri è andata in onda una cosa surreale, con una presenza in studio del solito Fignano di turno che faceva il controcanto col solito rappresentante del PDL, cioè c'è una, come dire, strategia politica anche negli inviti. E ovviamente ieri sera Bianca Berlinguer ha dovuto difendersi rispetto a queste Non è una linea editoriale, cioè Minzolini ha la sua e viene criticato, un altro ha la sua. Qua anche voglio arrivare. Speravo che lei parlasse di linea editoriale, perché lei ha un editore, però lei è non sono pubblico, insomma. Sì. Prego? Cioè il nostro editore è Confindustria, non è una radio pubblica, dice questo, l'editore. Esatto. Ma lei, a parte che non è una radio pubblica, però è difficile che ci sia, è chiaro, vi schierate sulle questioni di grande importanza che riguardano il mondo dell'industria evidentemente, ma sul resto qui c'è un contraddittorio, abbiamo lo stesso tempo per poter parlare, e soprattutto lei come gli altri suoi colleghi è un conduttore, diciamo così, equanime. Va da sé che qualsiasi giornalista di qualsiasi media soggiace ad una sorta di linea editoriale. Allora è un dato di fatto che l'editore della RAI è il Parlamento, come ben sa Pardi, cioè la commissione di vigilanza. Ma quindi, per esempio, lei vedrebbe bene, come spesso ha detto Berlusconi, ci vorrebbe una rappresentazione anche come informazione percentualmente rispondente alle posizioni di forza in Parlamento? Ma io ho addirittura presentato una proposta, ovviamente su richiesta del centrodestra, di riforma della par condicio, che è depositata in Senato e che mi auguro possa partire quanto prima, e che tra l'altro troverà anche nel centro-sinistra degli sprazzi di condivisione, perché va da sé che se un partito rappresenta il 40%, mi sembra un po' ridicolo attribuirgli lo stesso peso e la stessa esposizione mediatica che si riserva ad un partito che rappresenta lo 0,5%. Insomma, dice questo controcanto, ha capito senatore Pardi, ecco, questa potrebbe essere... Io trovo che questa sia una concezione pericolosissima. Cioè, stabilire che si parla in ragione dei voti che si sono presi è la fine della democrazia. In base a questo criterio, Berlusconi la prima volta non avrebbe avuto accesso ai programmi Rai. È vero che ci aveva le sue che compensavano largamente, però non sono per niente d'accordo. Senta, esco ringraziando voi, Alessio Butti, Francesco Pardi. Questa immagine del tacchino impettito, senatore, devo dire che un po' mi ha rallegrato la mattinata. È realistica, lei no, ci penserò tutta la mattinata. La ringrazio, Antonella Migliaccio in redazione, oggi Filippo Aureggi in regia. La linea a Oscar Giannino. A domani.